Salve, siamo a un nuovo incontro delle relazioni intitolate Acqua, mescolare acqua e vino, e parleremo oggi del mercato del lavoro. Mercato. Mercato è una parola che ormai è sulla bocca di tutti e forse in tanti non abbiamo l'idea precisa di cosa significa mercato. Ma prima di arrivare a disquisire sulla parola mercato, osserviamo un po' la vita umana, perché il lavoro appartiene sicuramente anche alla vita umana. Osserviamola per vedere quanta influenza, quanto spazio il lavoro deve avere nella vita degli esseri umani. Tutti percepiamo bene che una vita senza relazioni non è una vita che vale la pena di essere vissuta. Qualcuno qui potrebbe obiettare che ci sono persone che vivono isolate dalle comunità e che quindi stanno a annullare quello che dicevamo prima, cioè che non si può vivere isolati dagli altri. Ma io vi devo raccontare un'esperienza personale della mia giovinezza che mi tiene fermo in questa convinzione che la vita bisogna viverla insieme agli altri. Nel Casentino esiste un eremo che si chiama Camaldoli, dove ci sono delle persone, mi riferisco a decine di anni fa, ora un po' è cambiato, dove diciamo c'erano delle persone che non uscivano mai dalla loro cella se non per andare a pregare con gli altri confratelli, eccetera. Io ero molto incuriosito dell'ambiente religioso in quel periodo, allora chiesi di poter parlare con uno di questi eremiti, se fosse stato possibile, e mi fu concesso. Quindi entrai nella cella di quest'uomo, un uomo maturo, e la prima cosa che mi diede nell'occhio fu una carta geografica con tutto il mondo rappresentato. Parlammo di più cose, anche di religione, perché ovviamente la scelta di questi uomini che vivono da soli è di sviluppare l'incontro con l'essere superiore, con le relazioni di religiosità. E poi, incuriosito dalla carta geografica del mondo, gli chiesi perché avesse nella sua cella, povera, scarna, disadorna, perché avesse quella bellissima carta geografica. E lui mi rispose che era interessato, come essere umano, a sapere tutto quello che avveniva nel mondo. E allora da quella carta riuscivo a vedere dove era il Brasile, in qualche maniera riusciva a sapere cosa vi succedeva, ovviamente con le stampe o altro, e la sua attenzione di religioso si riferiva a quel paese con la preghiera, diciamo con i suoi mezzi di collaborazione. Ugualmente riusciva a pensare e a collaborare per il benessere, sempre con i suoi mezzi, al benessere dell'Italia, al benessere della Norvegia, all'equilibrio nell'Africa. Allora, per quanto ci interessa in questa conversazione di oggi, credo proprio che non esista nessuno, neppure gli eremiti, che fanno una vita isolata da tutti, neppure loro, che non fanno parte e non si relazionano in qualche modo con la comunità umana. Quindi credo si può affermare con certezza che l'essere umano non può vivere fuori della comunità degli esseri umani. Poi basta guardarsi intorno, andiamo per una strada, andiamo in un negozio, andiamo in una fabbrica, tutto intorno ci sono esseri umani, vuol dire che ci serve stare con gli altri, se no andremo tutti o tanti a stare su una montagna inaccessibile e ognuno vivrebbe per conto suo. Allora, se ci serve di stare insieme agli altri, bisogna anche osservare come si svolge la vita dell'essere umano in relazione alla presenza degli altri. La nostra società opulenta dell'Occidente in genere suddivide la vita dell'essere umano in alcune fasi in cui tutti ci ritroveremo o ci troviamo. La fase iniziale è quella ludica. Il bambino gioca sotto l'attenzione dei genitori, dei tutori, degli educatori. Poi avviene il periodo dell'apprendimento in cui attraverso gli insegnanti la mente del cittadino si apre e la sua conoscenza si allarga, alle volte tantissimo, comunque sicuramente si allarga, perché riuscire a fare di conto vuol dire allargare la mente, riuscire a fare delle ricerche che riguardano l'universo vuol dire allargare la mente. Quindi la scuola, l'insegnamento produce un allargamento della visione dell'essere umano. Dopo la fase dell'istruzione c'è la fase del lavoro. Il lavoro è di tanti tipi. Il lavoro c'è quello più intellettuale, quello manuale, quello più attivo, quello che richiede un utilizzo notevole del corpo, altro lavoro che richiede di spostarsi continuamente sul territorio, sulla terra, eccetera. Quindi ci sono tanti tipi di lavoro, ma il lavoro è una fase importante della vita dell'essere umano e dura anche abbastanza a lungo, fin quando arriva la pensione, che è l'ultima fase della vita umana in genere, e quindi nella pensione le forze sono diminuite, le capacità intellettive si attenuano e il lavoro, che era prima il riferimento e riempiva le giornate, non può più essere eseguito per una decadenza fisica e anche psichica del corpo umano. Allora, se nella vita umana c'è un periodo così lungo che interessa il lavoro, cioè le relazioni con gli altri, perché il lavoro significa relazionarsi con gli altri, vuol dire che questo lavoro è importante. Ed è così importante che per noi italiani, quando leggiamo la Costituzione, troviamo sull'articolo 1, il primo, quello che poi darà il via a tutte le considerazioni, a tutti gli obblighi della Costituzione. Il primo che dice l'Italia è un paese, una repubblica democratica fondata sul lavoro. Dobbiamo capire il significato della parola fondata, perché può causare equivoci. Allora, in italiano fondare vuol dire mettere delle basi. Pensate alla costruzione di un edificio, di una casa, di una torre, mettere delle basi adeguate per fare in modo che sopra ci si possa costruire qualcosa. Allora, la Costituzione che parla di fondata sul lavoro significa che il lavoro è un elemento che sicuramente deve appartenere a ogni cittadino italiano, ovviamente nel periodo giusto, come dicevamo prima. Però questo articolo e questo aspetto del lavoro come diritto e come dovere di ogni cittadino italiano non è molto sfoggiato nella cultura dei media oppure dei grandi ricercatori, dei costituzionalisti. Ma perché? Perché è un argomento che crea difficoltà, cioè se tutti gli italiani devono essere fondati sul lavoro, cosa si dice a quei milioni di italiani che non hanno lavoro? Allora, non avere lavoro è un obbrobrio che indica il non rispetto della Costituzione. Sul lavoro, per tornare alla nostra osservazione iniziale del mercato, oggi si procede con il mercato del lavoro. Ma cosa significa mercato del lavoro? Mercato, come tutti sappiamo, significa che quando c'è una cosa che interessa più persone, chi la possiede la mette disponibile ad essere acquistata e l'acquirente pagherà un prezzo più o meno, un prezzo economico più o meno alto in relazione alla richiesta che c'è di quella cosa. Cioè, facciamo un esempio super classico: le arance, nel periodo in cui ce n'è poche, cioè nel periodo della produzione iniziale, costano molto. Mercato, poca roba, la vuoi, paghi tanto. Nel periodo in cui ce ne sono tante, perché le piante sono nel maggior momento della loro produzione, le arance costano meno, perché mercato, abbondanza di prodotto, diminuzione del costo. Allora, questo è il mercato, e non si può dire che il lavoro debba esistere prima e poi costare, remunerare in relazione alla richiesta che c'è, perché tutti i cittadini italiani, rispetto a quello che dice la nostra Costituzione all'articolo 1, hanno il diritto di un lavoro. Ovviamente ci sono lavori più o meno pregiati, e questo si può capire che ci siano differenze di remunerazione, anche se non si può capire che le differenze siano abissali alle volte. Comunque, differenza di remunerazione si può capire. Non si capisce invece come mai il mondo della politica, che dal 1946, mi sembra la Costituzione abbia quella data, il mondo della politica non è riuscito a attuare questo diritto dovere di tutti gli italiani, che nell'insieme crea, non attuato, disagi enormi. I poveri ci sono oggi, ci sono stati nel tempo addietro e ci saranno, ci sono perché il lavoro non appartiene a tutti. Allora, io un'altra volta ancora mi arrabbio contro questi politici che non rispettano i cittadini nelle loro basilari esigenze e diritti. I politici sono lì per lavorare, per fare attuare una società equilibrata, giusta, principalmente una società collegata ai principi costituzionali. Allora, se questi politici non riescono a costruire, a far sviluppare, a far evolvere una società collegata ai principi costituzionali, o non vogliono o non sono capaci di far rispettare, di far attuare la Costituzione italiana, che assolutamente nega che il lavoro sia un mercato e afferma che il lavoro è un diritto e un dovere di ogni cittadino. Da Radio Big Word saluti, e se volete ci sentiamo prossimamente.